We are. Base. such a lonely day shouldn't exist. It's a day that I'll never miss. Such a lonely day. Thank you. شده شدن سر این برج. I'm just check this out. We'll be right back. La conoscenza del vissuto degli uomini non è una scienza esatta, bensì un'esperienza legata alla contingenza e un processo che evolve ininterrottamente. La contingenza è un processo che evolve ininterrottamente. Conoscenza del vissuto degli uomini non è una scienza esatta, bensì un'esperienza legata alla contingenza e un processo che evolve ininterrottamente.